Le Marche online. Viaggio alla scoperta delle Marche, navigando su internet. Un programma a cura di Luca Lorenzetti. Bene, ben trovati con questa nuova puntata delle Marche Online, sapete, dedicata alle pagine personali, ovvero di come i marchigiani promuovono se stessi, loro stessi, su internet. È estremamente facile ormai, arrivati al giorno d'oggi, pubblicare del materiale su internet riguardo al proprio hobby, alla propria professione o comunque riguardo a qualunque cosa si ritiene possa essere di interesse pubblico. Abbiamo in linea, in collegamento telefonico con noi, un protagonista per quanto riguarda le Marche, di questo nuovo modo di essere presenti e di presentarsi al pubblico via internet, Kruger Agostinelli. Ci sei, Kruger? Ciao, come no? Anzi, ti ringrazio di questo che mi hai interpellato. Tu mi stai viziando, però, prima con gli articoli sui giornali, adesso con interviste. Senti, Kruger, pagato per te. Benissimo, a buon rendere. Da dove è nata l'idea di questo progetto? Dall'amore che ho trovato per la posta elettronica, perché l'ho trovato un mezzo molto versatile grazie al linguaggio HTML, e qui andiamo un po' su dei termini che possono essere sconosciuti. Comunque è il linguaggio con cui vengono scritte le pagine per internet. Sì, diciamolo, è quello che poi permettono di avere la cosiddetta multimedialità, tanto certo. Bisogna parlare anche di queste cose. Praticamente che la paginetta non è più fredda, ma ti arriva uno scritto a colori con la possibilità di avere dei GIF animati, quindi delle animazioni, e con la possibilità di metterci anche delle musichette. Kruger, la tua attività nasce dalla passione, quindi. Ma la mia attività parte dalla mia testa, che è abbastanza matta da questo punto di vista. Cioè, io ho avuto sempre un amore per la comunicazione e un amore per tutto ciò che è creativo. E per cui ho parlato, ho messo dischi e adesso mi posso permettere, ecco, mi sento abbastanza realizzato più di prima a fare queste cose, quindi ho iniziato casualmente a mandare delle lettere a degli amici, sono incappate in lettere di altre, le lettere che si chiamano email, che sono arrivate ad altre persone casuali che hanno detto: che Caruccio, perché non ce le mandi pure a te? Qui scatta l'idea, nasce praticamente tipo l'araba fenice, no? Quindi dalle ceneri del vecchio disco giochi che si era invecchiato 20 anni fa e quindi si era ritirato in buon ordine. Nasce questo personaggio che ha un disegnino caruccio, a me piace, che mi ha fatto Roberto Mangosi, sì, che è un altro dei maghi di internet. Nasce il Super Kruger, che è il mail jockey. Quindi praticamente, che cos'è un mail jockey? Quindi? Il mail jockey è un disc jockey della rete, è praticamente è una cosa che io mi sono inventato perché è il dottor Jekyll e Mr. Hyde che c'è in ognuno di noi, è la fuga dal quotidiano, sono tutti slogan che poi io utilizzo per le cose con cui comunico con la gente. So che sei sulla bocca anche di personaggi di VIP, personaggi famosi. Sì, vuoi farci qualche nome? Sì, anzi, mi dai la possibilità di dirtelo, cioè c'ho Fiorello, e la cosa, forse questo mi abbassa un po' il tono, però c'ho i ragazzi di Radio DJ che sono tutti in linea con me, c'ho fra l'altro anche Coso, c'ho quelli di Radio Monte Carlo da un mese a questa parte, ho l'importatore dell'Hammond, c'ho assessori, c'ho soprattutto le Bene. Persone normali, che sono quelle che adoro. Ecco, quanti corrispondenti annoveri? Ad oggi posso dire ufficialmente, anche se sul sito non l'ho detto, sono 3.000 persone che mi devono sopportare dalle 2 alle 3 volte al giorno. Da che sono soprattutto marchigiani oppure no, provengono? No, qui la bellezza, cioè ecco. Io sono, è vero, sono un discogioco, cioè un mail jockey marchigiano, ma io porto le Marche fuori, nel senso che sono un ambasciatore della nostra terra e delle nostre barzellette e delle nostre storie. Quando è saltata l'API mi hanno scritto da tutto il mondo, perché ho delle comunità importanti all'estero, sì. ce l'ho in Canada, ce l'ho attualmente anche in delle isole meravigliose della UE, in delle isole di cui non conosco neanche il nome, non so geograficamente dove stanno, sotto Cuba, Miami te l'ho detto, c'ho Dallas, l'Europa è ben coperta. Senti, ecco, quanto tempo ti prende questa tua attività più o meno hobbistica durante la giornata? Tanto, perché chi legge le mie lettere quando partono alle 3:30 di notte e alle 7 di mattina, per cui voglio dire, sto diventando uno rubo molto tempo al sonno, che è l'unica cosa che c'ho. Evidentemente, quindi la mia pazzia nasce nelle ore che rubo a un'attività che ritenevo superflua come quella di dormire. Bene, ti ringraziamo tantissimo. Scusami per le chiacchiere. Della tua disponibilità. Ma... Speriamo di risentirci presto e tanti auguri per il tuo lavoro. D'accordo. Ciao, a presto. Avete ascoltato Le Marche Online. Viaggio alla scoperta delle Marche, navigando su internet. Musiche di Giacomo Caliolo, Raffaele Mazzei e Piero Trofa. Consulenza musicale Raffaele Mazzei. Un programma a cura di Luca Lorenzetti.